Succede di sincronizzare due battiti, questione di attimi ed eternità. Che la paura di restare da soli si misura tra il tempo e la pubblicità. Succede che non conto più fino a 100, ha ragione l'istinto prima di parlare. E come sto, meno male sto, bene o male mi conosci. Succede sempre di sbagliare indirizzo, di cambiare una strada e rimanere a piedi. E tutto quello che sogniamo la notte si misura tra gli occhi e quello che non vedi. Succede che ti svegli ogni mattina, il tuo più grande nemico ti sorride allo specchio. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring, in piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Succede sempre dopo ogni tempesta, l'aria non è la stessa e forse neanche tu. Che proprio quando vuoi dimenticare ti innamori di nuovo e non ci pensi più. Succede ogni volta che ho il coraggio di uscire in tempo. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring. Si perde da sempre, da sempre, da sempre. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo.